Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Molti mi chiedono se oggi fosse mai l'ultima trasmissione di Melog di questo ciclo. No, abbiamo ancora tutta la prossima settimana. Va bene la settimana corta, va bene le vacanze anticipate, ma ancora il mese non è finito. Invece oggi no, oggi vi convoco su un tema che secondo me è molto interessante anche per quelli che dicono e affermano la loro ferrea e tetragona volontà di rimanere attaccati alla concretezza. Il tema è quello della privatezza, della privacy, secondo un termine ormai entrato nell'uso comune. Una parte precipua dell'umanità, ma io direi ormai la quasi totalità dell'umanità, perché se non lo è in forma diretta, lo è forma indiretta, ormai una parte importante della propria vita, della propria esistenza, delle proprie relazioni, della propria memoria, collocata in una zona intermedia che non è il mondo concreto, non è il mondo materiale, non è nemmeno il mondo assoluto delle idee. È nelle memorie futili e volatili, ma nello stesso tempo abbastanza difficili ad essere sterminate, di un'infinità di server, di computer che contengono i dati che ogni giorno noi affidiamo attraverso le nostre protesi personali, vuoi ai social network, vuoi a delle aree web, in cui comunque rimane traccia di ogni nostro pensiero, di ogni nostra transizione, di ogni nostra possibile e immaginabile parcella dell'esistenza. Voi direte, io non ho un profilo Facebook, io non metto i filmati su YouTube, non guardo e non uso il computer se non per lavoro e per cose indispensabili, a me questo non riguarda. Ma è vero fino a un certo punto, perché la parte più attiva e più avanzata del mondo ormai dà per scontato che ognuno di noi abbia questa ombra digitale che riflette se stesso. Vi faccio un esempio. Se in Virginia vuoi diventare poliziotto, forse è meglio che prima con grande cura e attenzione, ammesso che ciò poi sia possibile farlo in maniera indelebile, cancelli tutte le tue informazioni che reputi private e non condividibili con estranei dal tuo profilo Facebook. Perché durante la selezione a un certo punto la persona, il reclutatore che interroga i candidati, dice adesso dammi le tue password di Facebook. E dici come devo darti? No, dammele, perché non me le vuoi dare? Dici ma sai veramente, se non me le vuoi dare nascondi qualcosa, se non nascondi nulla dammele. E a quel punto se uno vuol fare il poliziotto in Virginia deve dare la password di Facebook, che significa non soltanto vedi la parte esterna del profilo, ma vedi tutta la tua corrispondenza, tutto quello che hai fatto, che hai pensato, stratificato negli anni in cui tu hai messo te stesso nel social network. Quindi a questo punto si stabilisce che tutto quello che noi consideriamo un'area privata, quindi la lecita estensione della nostra memoria biologica, non lo è più tanto privata. Perché se un paese come gli Stati Uniti, per dare dimostrazione di integrità, di non avere segreti da nascondere, avere nulla e tutto visibile sotto il sole, bisogna dare le password di quello che è lo scrigno segreto di ogni nostro pensiero, di ogni nostra relazione, di ogni nostra fugace e momentanea uscita dalla realtà, beh, significa che quella non è più un'area privata. Sì, perché noi per avere qualcosa di equivalente a quello che oggi consideriamo la nostra privatezza in rete, dobbiamo inventarci qualcos'altro, una sottorete o una rete privata o qualcosa che ci permetta comunque di mantenere quel senso di lecitamente segreto di quello che appartiene solo alla nostra coscienza. Nella nostra coscienza non si può entrare se non attraverso sistemi di intrusione e chimici, attraverso alcuni farmaci che ci fanno abbassare il nostro livello di tenuta delle nostre riservatezze. Nell'estensione digitale della nostra coscienza, della nostra privatezza, dei nostri desideri, ma anche delle nostre follie, anche delle nostre dissolutezze, perché il privato è questo, è anche lo scrigno delle nostre dissolutezze. Ognuno di noi ha il diritto di essere mentalmente, oniricamente dissoluto. Nessuno ti viene se non un attento psichiatra, una persona che ti fa un'iniezione di farmaco particolare che ti abbassi tutte le difese, entra nella tua dissolutezza interiore. Se noi consideriamo i social network oggi luogo di meravigliosa esposizione della nostra vita, della nostra vanagloria, del nostro desiderio di esistere, delle nostre relazioni, luogo di ricerca, luogo di fusione di noi con il mondo, dobbiamo pensare che non è più un luogo comunque esclusivo. 800240024. Google ha annunciato una rivoluzione in materia di privacy. L'azienda di Mountain View ha scelto di semplificare regole e termini di utilizzo dei suoi servizi per rendere la vita più facile agli utenti, che ormai devono gestire decine di account e di servizi spesso interconnessi fra loro, dettaglio che complica ulteriormente le cose. Degli attuali 70 moduli odierni che tutelano la privacy, uno per ogni prodotto da YouTube a Gmail, 60 verranno riassunti in un unico documento che spiegherà quali dati vengono usati e come. Chi naviga quindi avrà lo status di utente unico che utilizza servizi diversi, ma con le stesse regole. Vi ricordate, su questo facemmo una puntata, ne parlammo qualche mese fa, e capimmo che in realtà molti utenti di quello che è ormai uno dei marchi che più facilmente vediamo sotto i nostri occhi quando accendiamo un computer, perché è il motore di ricerca per eccellenza, è il fornitore di caselle di posta elettronica privata fantastica, piena di mille strumenti di classificazione, di interazione, di archiviazione, ha al suo interno una sorta di social network che non ha avuto poi un grandissimo successo, però comunque è una maniera per interfacciarsi con altre persone, ha un'infinità di strumenti utili e via dicendo, che però non tutti sanno quanto ciò che noi collocavamo ogni giorno di noi, e io metto tantissimo in Google, un'infinità di caselle, lo uso per mettere per la mia memoria, non porto più dietro, ma come un'infinità di altre persone, supporti fisici di memoria. Quando un documento che so che mi servirà, lo mando a me stesso, lo mando nelle mie caselle e so lì che me lo potrò ritrovare. Esistono degli strumenti utilissimi anche di condivisione dei nostri documenti. Quanto siete convinti, siete sicuri che avete la perfetta cognizione di tutto ciò che appartiene alla vostra sfera più privata, con la sorta di scrigno segreto che dicevo, che un domani qualcuno potrebbe chiedere: dammi le tue password, perché se tu vuoi lavorare con me devo essere sicuro che non mi nascondi nulla. Quando vi iscrivete a Facebook dovete lasciare una serie di informazioni personali. A questo punto, se non volete fare sapere troppe cose di voi, evitate di inserire notizie che vi riguardano che non siano strettamente necessarie ai fini della registrazione. Facebook tiene traccia delle azioni che eseguite tramite il vostro profilo. Ad esempio, quando aggiungete qualcuno ai vostri amici, quando diventate fan di una pagina Facebook, vi iscrivete a un gruppo o un evento, mandate un regalo o un poke a un altro utente, indicate mi piace per un post. Sappiate che se ad esempio condividete un video, oltre a memorizzare l'effettivo contenuto che avete caricato, Facebook può registrare il fatto che lo avete condiviso. Quando accedete al social network da un computer, da un cellulare o da un altro dispositivo, sappiate che Facebook può raccogliere delle informazioni da tale dispositivo sul tipo di browser che usate, su dove vi trovate. 800240024. Oggi cercheremo di darvi un punto su come si sta evolvendo, si sta articolando, sempre in maniera, ahimè, ma questo fa parte delle logiche dei tempi, in maniera più complessa, il concetto di privatezza rispetto a quello che voi pensavate, immaginavate o perlomeno trascuravate di considerare come un dato essenziale quando ogni mattina mettete la vostra nuova riga di status su Facebook, postate la vostra foto o chiamate magari un amico in chat per dirgli: sai, stanotte ho avuto il mal di pancia, sono stato insonne tutta la notte, una cosa del tutto banale, però magari da qualche parte resta e qualcuno un domani potrebbe dire a quell'amico: mi dai le chiavi della tua posta perché voglio vedere se tu hai qualcosa da nascondere. E quel qualcosa da non nascondere è anche la vostra chiacchierata di una mattina totalmente innocente. Per fare questo punto, secondo me avanzato rispetto a quello che è il pensiero perlomeno alle nostre latitudini, saluto un nostro ospite che fortunatamente abbiamo colto in un suo viaggio in Europa, che è Alessandro Acquisti. Professore, buongiorno. Buongiorno. Il professor Acquisti, la posso chiamare cervello in fuga? No. In fuga sì. È un cervello in fuga, cioè è uno studioso che ha un grande credito negli Stati Uniti, infatti è professore alla Carnegie Mellon University di Pittsburgh, che è una delle più importanti università americane, e studia proprio la privacy, l'evoluzione del concetto di privacy. Non so se lei ha avuto modo, professor Acquisti, di ascoltare il mio inizio, ma io suppongo l'idea che oggi quello che tutto noi consideriamo luogo della privacy, quindi il fantastico e meraviglioso luogo dei social network, del web 2.0, chiamiamolo come vogliamo, in cui pensiamo di poter mettere tutto ciò che vogliamo perché è come una periferica della nostra coscienza, non potrà più essere considerato come tale, dovremmo inventarci qualcos'altro. Certo, ascoltavo quello che diceva, lei parlava di estensione digitale, è una bella descrizione, una parte sempre maggiore delle nostre vite personali e professionali avvengono online e quindi lasciano delle strisce, delle ramificazioni di dati, in America vengono chiamati dossier society o data shadow, l'ombra digitale. Per cui un tempo queste cose che, per esempio, parole che condividevamo con amici rimanevano solo tra amici. Adesso ne rimane una traccia nel server di Google, nel server di Facebook, e possono essere analizzati a tempi più tardi e magari poi passati ad altre entità. E questa generazione, noi tutti ci stiamo ancora adattando a questo cambiamento in cui lasciamo questi dati digitali dietro di noi, questa data shadow. Lei non è convinto, professore, che ancora l'umanità, anche quella più avanzata, i nativi digitali stessi, stiano trascurando il fatto che noi abbiamo un nostro alter ego digitale che sta crescendo alle nostre spalle, che è molto più grande di quello che noi immaginiamo, e il giorno che qualcuno ci chiederà di darci un'occhiata, di guardarlo, ci accorgeremo che tutta la nostra vita, comunque tracciata, narrata, raccontata, questo magari è anche una bella sorpresa, ma bisogna fare i conti con questa consapevolezza. Sì, c'è una congettura che possiamo fare, la chiamo congettura perché al momento non è possibile dimostrarla empiricamente, che noi abbiamo evoluto l'abilità di negoziare la nostra sfera pubblica e privata nel corso di centinaia di migliaia di anni in conversazioni offline, face to face, volto a volto, ma non ancora abbiamo sviluppato la stessa abilità di negoziare la sfera pubblica e privata online, perché quando siamo online non abbiamo quelle stesse segnali che ci dicono attento, questa informazione potrebbe essere sbagliata da dare via in questo momento, che invece offline possiamo usare. Per questo sì, molto del nostro lavoro, che io chiamo la behavior economics of privacy, quindi l'economia del comportamento applicata alla privacy, si occupa di questi problemi. Di come che è la disciplina, la sua disciplina all'Università di Pittsburgh praticamente, sì, quello che lei insegna. Lei non trova, la storia in fondo è fatta di documenti, di testimonianze dirette, indirette, solo la storia degli ultimi 50-60 anni e poco più è fatta di documenti apparentemente incontrovertibili, quindi testimonianze video, fotografiche. Quindi la storia è fatta di ipotesi, infatti la storia viene riscritta, sovrascritta, interpretata. La storia dall'epoca digitale in poi, nella sua evoluzione, sarà incontrovertibile, perché un domani che l'ombra digitale della narrazione dell'umanità possa essere consultata tranquillamente come fosse un database alla portata di tutti, non ci sarà un'interpretazione della storia. Beh, è una domanda affascinante. È possibile, ma non ne sono così sicuro. La ragione per cui non ne sono così sicuro è che, certo, i dati digitali possono rimanere a lungo, però non è detto che vengano tutti, che si possa accedere a tutti nella stessa maniera, nel senso che alcuni dati potrebbero essere più facili da trovare di altri, per cui posso comunque formarmi un'idea di una persona basata non su tutti i dati, ma soltanto su un subset di quei dati. E in più c'è anche il fatto dell'interpretazione di quei dati. Alcuni degli studi che abbiamo fatto alla Carnegie Mellon mostrano che le persone non soltanto si ricordano più dati negativi su di te, il che è già abbastanza preoccupante, invece di dati positivi, ma anche quando tu presenti informazioni su un'altra persona e dici, per esempio, il dottor Nicoletti ha vinto un premio pochi mesi fa, oppure un premio tanti anni fa, quando presentato come tanti anni fa le persone già non ci fanno più tanta attenzione, mentre invece se presenti dati negativi, per esempio il dottor Nicoletti ha avuto una multa recente, una multa tanti anni fa, quel dato negativo, indipendentemente dall'essere riportato come recente o giù nel tempo, continua a creare una impressione negativa del dottor Nicoletti. Per cui c'è questa disparità nel modo in cui interpretiamo i dati degli altri in base alla loro freschezza e al loro valore positivo. Le faccio respirare, professor Acquisti, un po' di aria di casa sua, così si rende conto di ciò che ha lasciato. Mi scrive su Facebook una mia ascoltatrice, Elena, dice: consiglio, e ho dato all'inizio l'esempio del poliziotto americano che durante il colloquio in Virginia deve dare le password di Facebook se vuole essere ammesso. Dice: consiglio al candidato poliziotto americano di cambiare la password di Facebook con una parolaccia tipo vaffank, così quando l'esaminatore gli chiederà la password lui potrà dirgli vaffank. Questa è immediatamente la reinterpretazione, la lettura, l'escamotage italiota rispetto al problema che noi ponevamo. Marco, buongiorno, sentiamo qualche ascoltatore. Marco, buongiorno. Io vorrei intervenire per manifestare una specie di piccola paura che credo che qualche anno fa senza i social network non esistesse. Io sono un musicista e pertanto molta della mia attività la vivo tramite Facebook, perché con pochi click riesco ad arrivare a tante persone. Questo molte volte non ha un riscontro in termini di numero, perché quanto più è facile la comunicazione tanto meno è efficace molte volte. Però mi trovo con una piccola paura, cioè quella di non poter uscire più da questo sistema, di avere il timore, se dovessi uscirne, perché onestamente me ne sono un po' stancato, non essere più nessuno, ecco. Cioè non vivere più appieno la cifra fondamentale della sua contemporaneità, del suo tempo, se non è interconnesso, il mondo in cui va sempre verso l'interconnessione generale, dice: sì, ma se ne esco e poi sarò uno sfigato. Sì, ma in qualche maniera sì. Io sì, ma glielo confermo, quindi sarebbe uno sfigato se ne uscisse. Ahimè, è dura, ma è così. Io credo di no, grazie al cielo. Però Ma da quel punto di vista, guardi, rimarrebbe sicuramente un grande artista, ma dal punto di vista della percezione del mondo, sarebbe quello. Dice: come mai non c'è più? Com'è non si vede più? Io sono convinto che anche negli ambiti che apparentemente sembrano più sciatti della propria esistenza, come appunto il web 2.0, la conquista di una leadership sia basata su una propria capacità di muoversi in quegli ambienti, piuttosto che dire: tanto qui non succede niente, tutti fanno le stesse cose. Io cercherei di capire il sistema di conquista, è una terra di conquista, comunque sempre la nostra esistenza è stata conquistata a prezzo di strategie, di tecniche che vanno affinate e costruite. Sandro, buongiorno. Caro Nicoletti, buongiorno. Senta, io non so, un dubbio, l'ho avuto sempre da quando ho iniziato a usare il computer, tanti anni fa, adesso sono 64, e lo vedo come un gigante dai piedi d'argilla. Infatti mi chiedevo: ma i file dove vanno a finire? E così ho scoperto che andavano a finire in alcuni locali appositi, uno ne esiste in Francia, sotterraneo, qualcun altro in America, dove lì è tutta la memoria. E allora mi sono chiesto: ma quella è memoria elettromagnetica, basta una bobina di Tesla, una bella bobina di Tesla, un campo elettromagnetico e va via tutto, tutta la storia, tutto quello che ci ha messo dentro. Ah, lei teme la cancellazione dei grandi, sì, dei posti della memoria. È possibilissimo. Sì, ma lei prende un computer, faccia una bobina, ci dà la corrente, la avvicina al computer e scompare tutto. Sì, ma Uno ci mette sopra una carica di esplosivo plastico, fa anche prima, lo distrugge proprio senza. Sì, sentiamo. Andrea Rossetti, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Ti introduco soltanto adesso perché mi ha preso un po' la mano. Vuoi spiegare ai nostri ascoltatori esattamente con chi stiamo parlando e per far capire, perché io non mi sono molto dilungato, ma abbiamo un personaggio molto importante. Sì, abbiamo sicuramente un personaggio più importante negli Stati Uniti su questa interpretazione economica della privacy, peraltro un approccio che in Italia e in Europa in generale è abbastanza disconosciuto. Noi ci concentriamo più sull'idea di definire concettualmente la privacy, di cercare di definire normativamente quali sono i limiti dell'azione dell'industria, dello Stato o del singolo. Invece Alessandro acquista questo approccio molto sperimentale all'idea di privacy, infatti appunto lui si occupa, cioè fa esperimenti, insomma, ecco, le idee che sostiene sono corroborate da esperimenti che vengono fatti, insomma, fa delle congetture e poi però queste congetture sono effettivamente testate con le. Allora, senti Andrea, siccome la tua linea a me mi permette di sentire molto male quello che stai dicendo ed è importante, ti richiamiamo e cerchiamo di migliorare la telefonata, riprendiamo con i nostri ascoltatori tra un istante a parlare di privacy, soprattutto di sviluppi futuri del concetto di privacy, che oggi consideriamo soltanto relegato a una specie di sfera emotiva, di sfera dei propri segreti personali, delle proprie piccole marachelle da nascondere, no? Ha un peso anche nella vicenda economica che coinvolge ormai l'umanità e i paesi in maniera sempre più stretta, al di là delle distanze geografiche. Quindi è importante fare questo approfondimento. Marco, buongiorno. Buongiorno. Io lavoro da ormai 15 anni presso una grande azienda informatica. Devo essere sincero, credo che sia uno strumento, il computer, Facebook stesso è uno strumento, deve essere utilizzato con la giusta proporzione, per cui quello che viene fatto in Virginia per i poliziotti potrebbe essere anche da un certo punto di vista condivisibile, perché effettivamente io questo strumento mi mette in comunicazione col mondo e io devo essere sì moralmente irreprensibile, devo imparare a comportarmi in maniera civile, altrimenti tanto vale scrivere un vaffa al posto della password, come ha consigliato l'ascoltatrice. Esatto, esattamente, come dice l'ascoltatrice. Sì, ma lei non trova l'informatico che l'illusione che ci è stata data, il momento in cui per la prima volta il web è diventato qualcosa che non era soltanto uno strumento di calcolo, di lavoro, ma è diventato qualcosa di socialmente gratificante, socialmente utile, ci è stata data l'illusione che comunque dietro il profilo che ci rappresentava potessero esistere, come esiste nelle nostre relazioni, varie stratificazioni. Io dico buongiorno, salute, come sta, andiamoci a bere qualcosa insieme, una persona che incontro per strada, entro nel livello di comunicazione più privato, ma non per questo illecito, penalmente perseguibile, semplicemente privato, non condivisibile, con una serie di persone. Questo livello di approfondimento pensavo, immaginavo, non io ma la maggior parte delle persone, poterlo trasferire tout court in una mia memoria, dice, per ricordarmi tutto, le mie relazioni più profonde le tengo in memoria nella mia area privata. Ora che qualcuno ci chieda che questo non è più privato, diventa pubblico, ci fa riflettere, può essere la logica dei tempi. Sì, però per una particolare funzione, cioè è come se per esempio qualcuno che fa il parlamentare dovesse dimostrare in prima istanza di dover essere moralmente irreprensibile, di non avere pendenze con la giustizia, e questo diciamo sarebbe auspicabile da tutte le persone che magari votano questo parlamentare, insomma, che considerano comunque la parte politica in un certo qual modo onesta. Giro, ho capito perfettamente, per dare modo poi a tutti di intervenire, ci sono molte persone. Giro direttamente la sua riflessione al professor Alessandro Acquista, abbiamo questa mattina ospite, ricordo che è un importante studioso di privacy legata appunto ai comportamenti all'Università Carnegie Mellon di Pittsburgh. Professor Acquisti, ha sentito il nostro informatico, ci dice che trova che sia giusto. Io dico però, metto una piccolissima ipoteca su questo giusto in assoluto, potevano dircelo prima che non sarebbe stato il luogo che dovevamo considerare l'estensione digitale della nostra coscienza. La riflessione di Marco è interessante, mi ricorda una discussione negli Stati Uniti a cui si fa riferimento col termine di Transparent Society, la società trasparente, che è il titolo di un libro che David Brin, che sia uno scrittore di fantascienza che anche un ricercatore, scrisse alcuni anni fa sulla società del futuro in cui tutti sanno tutto di tutti. E questa può essere vista da alcuni come un'utopia in cui, visto che c'è questa trasparenza totale, la società sarà migliore perché nessuno farà più del male, o infatti una distopia, perché in realtà, come facevo riferimento prima, anche se abbiamo tutti i dati, non è sicuro che li utilizzeremo bene. Le nostre bias naturali nel modo in cui giudichiamo gli altri, facciamo decisioni, prendono a volte il sopravvento sui dati personali, sui dati che abbiamo di fronte a noi. Un aneddoto, Steve Jobs, il fondatore della Apple, nella sua biografia fa riferimento all'aver usato acido, LSD, come l'evento più importante della sua vita. Io mi domando se Steve Jobs fosse stato un teenager adesso, avesse la sua pagina di Facebook e va a chiedere, a cercare un lavoro alla Facebook di oggi o a una computer di oggi e gli chiedono la password e vedono che lui ha fatto acido, forse Steve Jobs non troverebbe un lavoro. per la stessa ragione mi verrebbe di pensare che allora a questo punto nostra proiezione nel mondo digitale equivarrebbe a una sorta di certificazione, apparterremmo a una sorta di classe sacerdotale se vogliamo avere incarichi pubblici o semplicemente lavorare, e tutto ciò che noi consideriamo trasgressivo rispetto alle regole della società non dobbiamo metterci, non dobbiamo raccontarlo. Non c'è più un posto in cui possiamo mettere memoria del nostro privato, anche se non perfettamente allineato con quello che tutti vorrebbero che noi fossimo. E questo è esattamente il problema, il cosiddetto chilling effect, questo effetto in cui se noi siamo continuamente sotto monitoraggio o temiamo di essere continuamente monitorati, iniziamo a non essere più noi stessi, perché iniziamo a comportarci come pensiamo gli altri vogliono che noi ci comportiamo, e questa è una delle ragioni per cui a mio parere, a parere di altri ricercatori, la privacy non è soltanto per le cose che vuoi nascondere. La privacy è più di having something to hide. La privacy è anche essere se stessi e proteggersi dagli errori che altri potrebbero fare su di te. Volevo introdurre a questo punto nella discussione un'altra persona, Stefano Ricci, buongiorno. Buongiorno. Stefano Ricci è un avvocato milanese, è un cultore di materia di informatica giuridica all'Università degli Studi di Milano. Ha lavorato molto e è la prova che in realtà anche alle nostre latitudini stiamo approfondendo questi problemi. Avvocato, come potremmo poi trasportare quello che noi stiamo teorizzando? Stiamo parlando, non a caso il professor Acquisti cita docenti universitari che allo stesso tempo si occupano di fantascienza. Parliamo di un futuro probabilmente anche molto vicino, che ancora non ci appartiene, più modestamente legato alla nostra situazione nazionale. Come viene considerato oggi il segreto digitale da un punto di vista giuridico? Ancora da noi nessuno ci chiede la password del nostro profilo Facebook. Sì, assolutamente. Diciamo che tra le cose più interessanti che ho ascoltato c'è l'uso di due concetti antichissimi, sfera privata e sfera pubblica. Indubbiamente con lo sviluppo della tecnologia questi due concetti hanno assunto un connotato diverso. Se nella tradizione classica liberale il problema era che il pubblico invadesse il privato, adesso avviene paradossalmente il contrario, un po' il privato che invade uno spazio che cominciamo a considerare pubblico. E l'aspetto più interessante da un punto di vista strettamente giuridico è che la nostra concezione di privacy oggi, almeno da 50 anni a questa parte, equivale al concetto di controllo, cioè la privacy è il controllo sui nostri dati personali. In realtà probabilmente questo controllo è un'illusione, soprattutto se trasponiamo questa istanza di controllo in un contesto come quello di internet, e quindi probabilmente dobbiamo ritornare ad una concezione più classica di privacy come protezione dal controllo, che era praticamente la concezione. Anche perché, avvocato, non so quanto giuridicamente sia giusto, ci viene imposta anche una rettitudine dei pensieri, delle intenzioni, delle idee, delle transazioni, delle lettere, delle comunicazioni personalissime. Sono quelle le cose che uno non vuole, non vorrebbe poi rendere pubbliche. Come ci andassero a guardare nel nostro cassetto dove sta il diario dei nostri pensieri, dire anche quello di farmi vedere per dimostrarmi che sei totalmente integro, che non hai nulla da nascondere. Ma è un delitto aver qualcosa da nascondere che non sia penalmente rilevabile. Il concetto più interessante da questo punto di vista, secondo me, è quella di una professoressa americana, Ellen Nissenbaum, che parla di integrità contestuale. Cioè la cosa più importante è che a seconda dei contesti noi scambiamo informazioni di tipo diverso. Nel momento in cui c'è una sovrapposizione di questi contesti sentiamo violata la nostra privacy. Se vado a fare un colloquio di lavoro mi aspetto che le informazioni che io devo dare siano coerenti con quel contesto. Se per caso le informazioni invece che mi vengono richieste sono eccedenti, come ad esempio fornire la password per vedere quello che io ho scritto su Facebook in comunicazioni che faccio con miei amici o per attività che sono del tutto indipendenti da quella professionale, io sento violata la mia privacy. Il concetto di integrità contestuale è un concetto che viene tradotto un po' a fatica nella normativa europea, ma è sicuramente molto importante per capire in che direzione stiamo andando. Allora 800 24 00 24, il problema si fa interessante, sono aspetti che probabilmente molti di noi non avevano nemmeno considerato, non avevano nemmeno immaginato, ma il bello e il terrificante del pensiero digitale, che si evolve continuamente e la velocità di evoluzione è molto molto molto molto più accelerata di quanto possa essere la nostra capacità di percepire la novità in tutte le sue possibili accezioni. Gianni, buongiorno. Ad esempio, ci dà un esempio Gianni. Gianni, pronto? Eccomi. Ah, buongiorno, buongiorno Nicoletti. Io volevo parlare di un argomento che forse è un po' all'atere dell'argomento della trasmissione, però rientra a pieno titolo nella parte. Io ho letto che nel programma di Obama, se sarà rieletto nel 2012, entro il 2013 farà mettere a tutti i cittadini americani un microchip sottocutaneo a fini sanitari. Io credo all'inizio a fini sanitari. Vorrei sapere la sua opinione. La mia è che questo è fascismo. Questo è, scusi? Fascismo. Fascismo. Fascismo. Questo... Ah, quindi no, fascismo nel senso un controllo dittatoriale delle persone, in questo senso, è assolutismo. La scusa è il sanitario, quindi se sei in ospedale con un microchip sottocutaneo, io dico questo. E questo era il sogno di Don Verzé, il San Raffaele in realtà doveva evolversi in questo ospedale senza mura, in cui tutti hanno il microchip, se tu avevi un'accelerazione cardiaca, un problema, ti telefonavano e guarda che il tuo cuore non sta bene, corri nel primo punto di pronto soccorso e vatti a far vedere. Naturalmente, naturalmente registra tutto, ogni palpito, ogni ansia, ogni passaggio, ogni estasi. Quindi lei giustamente dice che è un concetto molto invasivo. Andrea Rossetti. Adesso a te mi servono proprio delle soluzioni tecniche. Primo, questa idea del microchip, che è sempre stata qualcosa di fantasmatico, ma io sono convinto che sarà una realtà, perché gioco forza, tutto ciò che noi ci portiamo in tasca o sulle spalle o prima ancora teniamo in grandi stanze deve diventare piccolo e averlo incorporato. Seconda cosa, un altro problema di tipo tech, così risponde tutto assieme, molti mi dicono ma bisognerà pensare a un altro luogo della memoria, che non è più il social network, magari meno social, più ristretto, la società segreta della memoria digitale minimamente condivisa. Allora, per quello che riguarda la prima domanda, ma in realtà Obama non ha nessun progetto del genere, ma certo, ovviamente. Va bene. No, è chiaro, no, questo per chiarirlo, insomma. È chiaro che però effettivamente ci possono essere delle pressioni affinché noi adottiamo delle cose come ad esempio il cellulare, che di fatto ci permettono di monitorare. Già lo è il cellulare a tutti gli effetti. Già lo è il cellulare, lo sappiamo, no? Se uno ha in mano il cellulare può essere identificato, la sua posizione può essere identificata con una precisione di poche decine di metri, quindi di fatto siamo già sotto controllo. È più subdola in qualche maniera in alcuni casi la maniera di controllarci, insomma, piuttosto che imporre un obbligo a cui tutti ovviamente si ribellerebbero. Per quello che riguarda la seconda domanda, invece, bisogna secondo me avere in mente che nel momento in cui si memorizzano informazioni all'interno di un computer su un supporto digitale, ecco, in quel momento non sono più sicure, perché questa è la verità, no? Per quanto il social network può essere piccolo, per quanto io possa controllare gli accessi unicamente ai miei amici, se io ho una cosa online o insomma, condivido su una macchina, può sfuggirmi. Qui c'era una bella metafora di un sociologo canadese, David Lyon, che qualche anno fa scrisse un libro, dice: i database, le raccolte di dati sono come vasi porosi. Quando io metto l'acqua in un vaso poroso non posso riuscire a fare in modo che non esca, che trasudi l'acqua, a differenza di un vaso di vetro. Ecco, è una metafora secondo me molto efficace. Nel momento in cui io ho un dato condiviso, magari con pochissime persone, con pochissimi amici, però c'è la possibilità che questo dato sfugga, che questo dato finisca in luoghi, in database che noi non ci aspettavamo e che magari noi non vogliamo, insomma. Monica, buongiorno, avvocato. Sì, buongiorno. Io volevo intervenire perché mi sembra di poter portare un contributo interessante. Esistono oramai degli strumenti e delle società di consulenza che si occupano di valutare la reputazione di singoli soggetti, ma anche di persone giuridiche e imprese online. Quindi il dato della reputazione di ogni singolo soggetto e quello che si dice di noi nel web sta diventando di fondamentale importanza. Gli ingegneri della reputazione, ne ho parlato con uno di loro proprio qualche settimana fa. Esatto, e noi infatti stiamo iniziando a tenere anche dei convegni. Io mi occupo dell'aspetto legale, quindi intervengo quando c'è la commissione di un reato. quindi solitamente diffamazioni che sono veramente frequentissime, soprattutto sul web, violazione di diritto d'autore e varie tipologie di reato, e utilizziamo queste consulenze perché per noi diventano veramente uno strumento molto importante anche per quantificare il danno che questo tipo di reati sul web possono causare ai singoli soggetti. Cioè il livello di profondità dello sputtanamento. Certo, esattamente, il livello di profondità dello sputtanamento. Però lo sa, avvocato, meglio di me, che sono strumenti che possono falsificare numeri, amicizie, volume. Oggi è tutto un'ipotesi, perché sì. Io guardavo l'altro giorno il profilo Twitter di Geppi Cucciari, che ha 100.000 persone, e lei non ha fatto nemmeno un tweet. È chiaro, ci sono società che a pagamento ti forniscono tutti gli amici che vuoi. Bisognerebbe poi vedere se sono reali e concrete quelle persone. Tra l'altro ci sono degli strumenti per diciamo indirizzare anche le opinioni che nel web compaiono su di noi, cioè intervengono all'interno dei social network con dei particolari strumenti per indirizzare poi quella che può essere l'opinione che ognuno, quindi allontanano diciamo quelle negative. Ma lei dovrebbe essere contenta come avvocato, è tutto lavoro in più, sono fette di mercato inimmaginabili. Senz'altro. Sì, senz'altro, è un mercato che sta iniziando a crescere, è un dato che ancora poche persone conoscono, le imprese soprattutto si affidano, più soprattutto le grandi industrie si stanno affidando a questo tipo di consulenze perché per loro diventa fondamentale sapere proprio cosa i consumatori pensano. Una battuta per concludere proprio al professor Alessandro Acquisti, che idea ha avuto, in una battuta veramente, siamo in sigla, delle reazioni dei nostri connazionali rispetto al problema che abbiamo posto? Alle reazioni e alle riflessioni che vedo tra i miei studenti negli Stati Uniti o nel dibattito sulla privacy negli Stati Uniti, il che mi ricorda che la privacy è davvero un problema universale, ci accomuna a tutti al di là del...